i miei capelli della confusione. Ciocca dopo ciocca, posso solo sperare che i miei pensieri si possano asciugare. Ma ti ricorderai di noi e delle giuste affermazioni. Asciugare i miei capelli della confusione.